La storia e la memoria di Dino Pesole. 8 anni di lavoro, 15 milioni di giornate lavorative. Ed oggi nord e sud si danno la mano attraverso l'autostrada del sole. È lunga 755 chilometri, da Milano a Napoli. Ed è costata 270 miliardi. I maggiori tecnici del mondo che l'hanno giudicata un capolavoro di ingegneria stradale ce la invidiano. Tra Milano e Napoli sono state costruite 38 gallerie e i nostri tecnici hanno risolto in maniera egregia i molti difficili problemi realizzando circa 400 opere d'arte. È il 4 ottobre del 1964. Il presidente del Consiglio Aldo Moro al casello di Firenze apre ufficialmente l'ultimo tratto dell'autostrada del Sole tra Chiusi e Orvieto, 8 anni dopo l'inizio dei lavori. Nel 1958 era stato Amintore Fanfani, allora presidente del Consiglio, a inaugurare il primo tratto, quello tra Milano e Parma, realizzato in 2 anni e mezzo. Un'opera gigantesca che attraversa l'Italia per più di 755 chilometri, progettata per rilanciare l'economia nazionale, costata qualcosa come 300 milioni di vecchie lire al chilometro, è divenuta simbolo della nuova industrializzazione. Tra il 1955 e il 1959 il ritmo di crescita dell'economia nazionale passò dal 5,2 al 5,9%. All'inizio degli anni 60 eravamo addirittura in testa alla classifica in Europa, 8,4% contro il 4,5% della Germania, il 5,5% della Francia, il 3,3% del Regno Unito e il 2,5% degli Stati Uniti. Nel 1962 l'asticella si arrestò al 7,8%. Tassi di sviluppo mai più realizzati con tale continuità e progressione. Negli anni del cosiddetto boom economico, l'economia crebbe al 6,5% annuo. L'espansione dei consumi e in genere della domanda determinò un forte aumento della produzione e dell'occupazione, sostenuta dalla vigorosa ripresa dell'attività edilizia sia pubblica che privata. Abbiamo in linea Patrizia Gabrielli, che è docente di storia contemporanea all'Università di Siena, sede di Arezzo. Agli anni 60 ha dedicato un libro dal titolo Anni di novità e di grandi cose, il boom economico tra tradizione e cambiamento, pubblicato dal Mulino. Buonasera professoressa, buonasera. Bentornata. Buonasera, grazie. Allora, gli anni 60, certo, a rileggere queste cifre oggi, che arranchiamo con un'economia che è in recessione, sembra quasi un libro dei sogni, eppure non stiamo parlando in fondo di non tantissimi anni fa, era un altro mondo. Sì, non ci corre un secolo, ma il cambiamento prodotto in quegli anni è stato veramente sostanziale per l'Italia. Gli anni 60 hanno prodotto un mondo diverso, non soltanto se noi guardiamo a quello che è lo sviluppo economico del paese, è uno sviluppo economico che tocca vari settori, che introduce in Italia i consumi, si consuma di più e cambia, visto che abbiamo citato l'autostrada del Sole anche per la ricorrenza del 50esimo, cambia completamente il modo di muoversi, di viaggiare degli italiani, c'è una diversa mobilità. Attenzione, una mobilità che certo è legata al fenomeno migratorio, alle migrazioni interne che sono tipiche di questi anni, ma riguarda però più complessivamente anche la vita quotidiana, cioè si viaggia di più, ci si muove di più, ciò è possibile perché è mutato radicalmente anche il sistema stradale. Certo, nel 64 si inaugura l'autostrada del Sole dopo lavori che sono durati 8 anni, ma questa non è l'unica opera. C'è un cambiamento da questo punto di vista e le strade bianche, appunto non asfaltate, diventano soltanto un ricordo nella memoria degli italiani, perché dal 59 in poi con la legge Togni si investe moltissimo in questo settore. Naturalmente c'è un interesse anche da parte di grandi gruppi industriali, no? L'autostrada del Sole sappiamo che nasce da un progetto fortemente voluto dall'ENI, dalla Fiat, dalla Pirelli, che sanno molto bene quali riflessi questo può avere sulla motorizzazione, no? Sul settore della motorizzazione. Però ecco, per dire, non è l'unica opera e si sviluppa una rete anche stradale molto molto diversa rispetto a prima. Infatti, professoressa, nella parte iniziale della nostra trasmissione trasmissione abbiamo trasmesso un sonoro dell'Istituto Luce che, con lo stile un po' ampolloso e retorico dell'epoca, parla del nord e sud che si danno la mano. Si danno la mano fisicamente, però poi, come sappiamo, proprio quegli anni acuiscono gli squilibri tra le due aree del paese. Sì, diciamo che quegli anni avrebbero, visto l'incremento che c'è stato nella produzione, eccetera, avrebbero potuto sanare quegli squilibri tradizionali, storici tra il nord e il sud. Questo non è stato fatto perché, come dire, uno sviluppo industriale deve essere poi guidato, diretto anche dalla politica. Quindi lo squilibrio è rimasto, però attenzione a non pensare ad un sud completamente, come dire, arretrato. Immobile. Ecco, perché i mutamenti ci sono anche lì. Si danno la mano e io confermo quanto lei sostiene, sono pronta a sostenerla anch'io, è un dato più che condivisibile il fatto che lo squilibrio permane, però questa autostrada del sole permette, come dire, modifica anche quello che è l'immaginario degli italiani. Questo è molto importante, perché appunto i due poli, Milano-Napoli, non sembrano più così distanti, e lentamente la modernizzazione tocca aree diverse del paese. Quando noi parliamo di modernizzazione, insieme al fattore economico, dobbiamo tenere presente anche i grandi mutamenti della mentalità, degli stili di vita, eccetera. Allora, i giovani del sud, come mentalità, in questi anni si avvicinano moltissimo ai giovani del nord, anche perché molti di loro se ne vanno dal sud e emigrano al nord alla ricerca di un nuovo lavoro, per superare, come dire, la miseria che condanna ancora le classi popolari, soprattutto i contadini nel meridione. Però vanno al nord perché sono attratti dalla città. Questo perché la città suggerisce e comporta stili di vita diversi e determina anche una maggiore libertà. Voglio dire, nelle grandi città non c'è il controllo sociale che i giovani avevano nei piccoli centri, no? Quindi ci sono anche fattori diversi. Poi che lo squilibrio ci sia, questo è un dato di fatto inconfutabile. Se noi guardiamo appunto sia agli indici economici che a quello che appunto che lei ora sta ricordando, cioè l'aspetto più propriamente sociologico, se vogliamo, si tratta obiettivamente di un periodo molto proficuo per il nostro paese. Lo collochiamo tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 sostanzialmente. Sì, poi 58-63, ecco, esatto. Queste sono le date, la periodizzazione canonica adottata dagli storici. Ecco, a lei che ha studiato così da vicino gli anni 60, le sembra un periodo così irripetibile? Quello che ha caratterizzato quegli anni, insieme appunto ai dati economici che avete anche, diciamo, fornito, la speranza verso il futuro degli italiani, l'idea che si stava crescendo ed era possibile crescere ancora, anche se molti di loro sono consapevoli delle tante contraddizioni. Se noi andiamo a leggere le memorie degli italiani e delle italiane di quegli anni, memorie che sono raccolte nell'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, noi abbiamo uno spaccato di grande interesse su quelle che erano proprio le emozioni, come gli italiani vivevano e la percezione che hanno del cambiamento. Ed è una percezione profonda. Basti pensare che qualcuno, più di qualcuno, annota sul proprio diario, oppure lo ricorda poi scrivendo a posteriori le memorie, il giorno in cui ha acquistato una 600, il giorno in cui il frigorifero è entrato in casa, perché il cambiamento è radicale. Attenzione, i consumi non sono a portata di tutti nella stessa maniera. Ancora nel 57, per un operaio acquistare una 600 significava indebitarsi in qualche maniera, ci volevano 16 mensilità, quindi doveva pagarla a rate, questo comportava altri sacrifici, però questo in qualche modo, ecco, veniva fatto rispetto alla vita che conduceva sia l'operaio che il contadino negli anni 50, c'era un cambiamento sostanziale, questo è percepito. Poi ci sono anche, come dire, in queste memorie la denuncia, no, dei disastri ecologici che presto verranno, delle contraddizioni, del fatto che le donne, ad esempio, sono ben felici di lavorare fuori casa, di svolgere quei lavori che non sono soltanto quelli tipici, no, femminili dell'artigianato, dove c'era una forte tradizione anche nel nostro paese, perché non è che le donne iniziano a lavorare negli anni 60, hanno sempre lavorato, certo, ma il loro lavoro non era visibile, ora diventa visibile. Però denunciano il fatto che sono divise tra gli impegni domestici, la maternità e il lavoro. Allora, questo sviluppo non ha poi in qualche maniera contemplato anche lo sviluppo di servizi sociali, di un welfare state che avrebbero permesso ai cittadini di avere delle maggiori garanzie. Cioè è stata una modernizzazione con molti limiti e squilibri. E forse ancora ne paghiamo le conseguenze per certi versi. Certo. No? In altri paesi il sistema di diritti sociali è molto sviluppato. Grazie professoressa, grazie molte. Grazie e buonasera. Buona serata.